Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Intercettazioni, lui era sua santità e intercedeva presso Cesare. Negli atti della procura lui era tra gli organizzatori di una presunta loggia segreta, un gruppo di potere occulto che coinvolgeva politici e imprenditori, raggiungeva alti magistrati e mirava a condizionare scelte istituzionali delicatissime. Vi ricordate dell'inchiesta sulla P3? Flavio Carboni ne è uno dei protagonisti. Imprenditore sardo, già passato attraverso complicate vicende giudiziarie, appena uscito dal carcere, come altri coindagati, Arcangelo Martino e Pasquale Lombardi, si prepara ad affrontare probabilmente il processo. Intanto, con una forza che i suoi 79 anni, i problemi di salute e 6 mesi di galera non hanno fiaccato, respinge ogni accusa ed entra nel cuore di questa delicata indagine della Procura di Roma. Non capisco cosa abbia fatto io meglio occulto. Guarda Geni, cioè riguarda una loggia, io tra l'altro non sono P2, conosco parecchie persone, se ne conoscessi di più sarei ancora più contento. Non esiste da noi una massoneria, che cospiratori siamo. Secondo l'inchiesta, obiettivo sarebbero pressioni rivolte a più destinatari. Quali obiettivi avremmo dovuto fare noi? Uno, io le assicuro che non c'è nessuna pressione per nessuna delle cose di cui mi sono occupato. Se lei mi dice che io ci tengo ad avere amicizie per numero e anche per qualità importanti, lo considero per chiunque la fortuna. Comunicare non è una pressione, il produrre lavoro, a fare, costruire, che significa la pressione? No? Favorire un amico? Sin favorire, significa favorire attività lecite, ben vengano questi favori. Un'associazione segreta per fare che cosa? E chi sono questi cospiratori? Non le pare che sia la più grande buffonata della storia? Io ritengo che invece un magistrato non credo che sarebbe avventurato a fare arrestare persone innocenti che siano stati male informati dagli organi investigativi. Staremo ovviamente a vedere quali saranno, come dire, gli sviluppi dell'inchiesta, ma entrando un po' in alcuni elementi di questa complicata indagine, quali sono i suoi rapporti con il senatore Dell'Utri e con Denis Verdini coinvolti in questa indagine? Dell'Utri lo conosco da moltissimi anni, persona corretta. Per quanto riguarda Verdini è una conoscenza relativamente recente, credo che sia 1 anno e mezzo, 2, è una presentazione che mi ha fatto il senatore Dell'Utri. In quell'incontro io trovo ancora un interesse alla partecipazione al suo giornale di Firenze. Certo, parliamo anche del giornale della Toscana. Il giornale della Toscana, sì. Ha detto della conoscenza di lunga data con il senatore Dell'Utri, ma avete avuto progetti anche di tipo imprenditoriale in comune? No. Non ho mai fatto affari con Dell'Utri, ci siamo scambiati dei favori anche economici. Finanziamenti che ha dato a favore di Dell'Utri, giusto? Ne ho dati e ne ho ricevuto. Ci siamo detto reciprocamente scambiati anche cortesie di natura economica. Lei ha raccontato appunto di aver sostenuto anche i circoli di Dell'Utri. Io ho detto che gli avevo sentito dire da Dell'Utri che lui ha forti spese, soprattutto per quanto riguarda i circoli. Questo tipo di aiuto non le era stato chiesto con questa finalità? No, non c'è stato. Io non gli vado a chiedere che cosa ci serve un amico. Se lui lo dice bene, se no non importa. Glieli ho fatti e me ne ha fatti a sua volta. Ha raccontato anche di favori con Caracciolo. Sono necessarie delle sponde politiche per portare avanti progetti e investimenti? Io credo che l'attività politica influisca sempre su tutte le cose, anche sul più umile operatore economico. L'unica sponda è che se un uomo ha potere, potere corretto, potere che gli deriva appunto dalla funzione che svolge, deve proporre leggi attraverso quelle leggi. Quella è la sponda politica, la legge. Quando di una cosa manca, diciamo, una legge o una norma necessaria per potersi poi attivare, ebbene ecco che allora quella è la sponda politica. Allora, ma perché non fanno questo? Suggerendo in qualche modo la necessità di proporre leggi proprio per rendere fattibile certe operazioni di lavoro e di produzione di ricchezza. Visto che c'erano stati sostegni economici anche con aree politiche di orientamento diverso, le chiedevo se fossero in un certo senso un passaggio necessario per portare avanti dei propri progetti. Per esempio, Paese Sera non era certamente un giornale democristiano. Io mi adoperai perché il Paese Sera ottenesse un finanziamento, questo non è un illecito. Caracciolo, che io ho conosciuto nel 72, l'ultimo momento della sua vita, io ero presente nell'albergo in cui è morto, e anche nel suo caso ci siamo scambiati sì tanti favori, come con Dell'Utri, anche di finanziamenti, quando Caracciolo ancora non aveva i miliardi che ha fatto dopo. comprai prima io e poi lo associai la Nuova Sardegna, Caracciolo non era certamente amico di Berlusconi. A proposito di politica e a proposito proprio di Berlusconi, nelle conversazioni di questa inchiesta sulla P3 e le conversazioni soprattutto con Martino e Lombardi, altri co-indagati, ricorre un riferimento a Cesare, che è stato identificato appunto con il premier Silvio Berlusconi. Io le volevo chiedere innanzitutto se questa identificazione è giusta e perché poi Martino diceva che un giorno Cesare gli sarebbe stato riconoscente. Cesare si riferiva a Berlusconi, quando parlava di santità si riferiva a me, eppure io ancora non sono papa, lo sarò se continuano così. Quindi io ero santità e io chiamavo Martino Eminenza. Quando per esempio Martino segnalava Cosentino, speriamo che Cesare mi sia riconoscente, bene, e così è un reato per dire questo. Poi mi diceva, mi raccomando a lei santità, lo faccia sapere a Cesare, diciamo quelli sono più barzellette. Cioè non c'era Cesare. La prospettiva di nulla. Qualcosa in cambio? Lui mi raccomandava delle persone che io a mia volta segnalavo al coordinatore, cioè, speriamo che Cesare lo sa che io mi stavo parlando, ma che vuol dire? Ognuno ci tiene ad avere il riconoscimento di un personaggio importante. Il premier non ha mai influito negli affari? No, ma assolutamente no, la sua santità non ha chiesto nulla. Le piaceva questo nomignolo? Mi piace questa santità. Carboni, lei ha raccontato a proposito di Martino e Lombardi che riceveva richieste da entrambi. Che tipo di richieste erano? E poi volevo chiederle perché le riteneva che Martino fosse una persona importante da coltivare, così come lei stesso ha raccontato ai magistrati. Un uomo mi viene presentato da un tale Carlo Maglietti. Io per un fatto di amore mi occupavo di musica e mi esisse una casa editrice musicale che si chiamava Gran Gala. Conobbi questo Carlo Maglietto, l'incontrattolo dopo tanto tempo, mi presentò Martino come un grosso imprenditore campano che era stato anche un esponente importante del Partito Socialista, mi pare di ricordare, che aveva delle ottime relazioni. Che tipo di richieste lei riceveva da Martino e Lombardi? Quella di Martino era quella appunto di favorire questi nomi che lui mi segnalava, che io a mia volta segnalavo a Verdini e Verdini a sua volta a Berlusconi. Segnalazioni per candidare. Era un uomo che secondo me mirava a ritornare in politica alla grande, anzi diciamo che lo diceva. E da Lombardi invece? Passava come una persona quasi alle dipendenze di Martino e organizzava queste conferenze con i magistrati. Quando lei sente di un uomo che organizza conferenze alle quali partecipano 100-200 magistrati, secondo lei è una persona qualunque, è una persona che merita rispetto e interesse? Lei sa già dalle intercettazioni e da tutto che andavano a prendere Bassolino, Formigoni. Insomma, vedere questa gente che ha rapporti così importanti, come potevo io pensare che non siano delle persone per bene? Dico solo che quando parlavo con Lombardi non capivo una parola, perché l'interprete era Martino. Dicevo generalmente sì, ho chiesto un intervento finanziario per un convegno che hanno fatto a Forte Village in Sardegna, e l'ho fatto, e nulla di nascosto, con assegni, non con soldi rubati. Cosa c'è di occulto? Invece di aperto, che mi ha fatto sentire orgoglioso fino a quando non mi è arrivato il mandato di cattura a casa. Ma lei, Carboni, che idea si è fatto della facilità di questi rapporti di Lombardi con tante alte toghe? Lo chiamavano tutti i giudici, io pensavo fosse giudice anche lui, dava tutti del tu. Quindi quando lei vede un rapporto del genere ha bisogno di spiegazioni, quando vede che una persona tratta coi massimi vertici delle istituzioni italiane, ebbene lei chiede questo perché li hai? Mi sentivo un fortunato di conoscerli, avrei fatto di più se avessi potuto, ma non segretamente, tanto più apertamente lo facevo, tanto più mi veniva di prestigio tutto questo. Sicuramente diciamo la facilità e la quantità anche dei rapporti di Lombardi con così tanti magistrati rappresentava un bigliettino da visita. E non solo magistrati, generali della finanza, generali dei carabinieri, c'erano di tutto. Tra i vari magistrati coinvolti c'era anche l'ormai ex presidente della Corte d'Appello di Milano, Alfonso Marra, che proprio per questo poi si è dimesso. L'ho conosciuto perché fu uno dei magistrati che si occupò del caso Ambrosiano, no? Credo che faccia, che sia da aggiungere al lungo elenco di vittime che è la loquacità, un po' le milanterie del Lombardo. E lei che cosa ha pensato delle sue dimissioni? Un atto, diciamo così, d'orgoglio, senza che questi ne avesse alcuna colpa. Considerando tutte le altre affermazioni fatte da Lombardo, le sue offerte di appoggi, sono in qualche modo servita per ingrandire ancora quella grottesca situazione definita poi Loggia Carboni o P3. Questo modo confidenziale credo che sia quello che ha contribuito a far nascere sospetti di un mar che si affidava alle cure di Lombardo, non ci ho mai creduto, non ci credo. Se dovessi dire una sola parola, direi una delle tante vittime, così come potrei dire degli altri magistrati coinvolti per essere stati colpevoli di aver conosciuto una persona che parlava a ruota libera. Si è parlato in questa inchiesta, Iatti, che questi rapporti potessero essere collegati alle decisioni che dovevano avvenire sul lodo Alfano, alla Consulta, oppure ancora della causa Mondadori in Cassazione, quindi vicende molto importanti e delicate che hanno riguardato a vario modo il Premier. E tra le questioni che riguardavano poi anche i magistrati c'era anche quella della candidatura a Napoli dell'ex capo degli ispettori del Ministero della Giustizia, Miller. Ecco. Sì. Di Miller se ne è parlato sicuramente, perché hanno segnalato anche Miller, credo che sia stato Miller a dire che non aveva interesse a candidare. Per quanto riguarda invece i Mondadori, li ho presi solo dopo l'arresto. Lombardo andava, che voleva dare una mano per sapere, cioè per avere la freschezza della notizia più che della raccomandazione. Forse il suo grande affare non era tanto quello di raccomandare queste cose. Si è parlato come si parlava nei giornali, chissà quanti giudici. Escludo nel modo più categorico che si sia parlato di fare trame per sostenere Berlusconi. Si è parlato di previsioni che si potevano fare all'epoca in cui c'era da decidere della costituzionalità del lodo Alfano. Ricordato di nuovo dell'Utri, Verdini, ma erano interessati anche loro ai progetti sull'eolico? Assolutamente no. Perché si parla di eolico? Perché Verdini telefonava a Cappellacci per raccomandare uno che si chiama Fares. Ma lì pensi, Fares con l'eolico c'entra esattamente come il due di briscolo. Non serviva nessuna raccomandazione. Tant'è vero che il TAR pochi giorni fa ha dato torto alla regione. Cosa mi poteva fare Verdini quando l'unica cosa che bisognava avere erano i terreni di Cappellacci? Non dava risposta. Io feci una sola domanda e dopo un anno neanche una risposta. E mi lamentavo con Verdini, perché Verdini è il coordinatore del partito e poteva intervenire. Perché? L'ultima cosa che vorrei chiederle, Carboni, una domanda un po' complessiva rispetto alla sua vita. È passato attraverso contestazioni e, per carità, anche assoluzioni varie di vicende importanti. C'è qualcosa che lei ha da rimproverarsi? Prima che io conoscessi Calvi avevo mezza Costa Smeralda. Dopo questa tragedia ho perso quasi tutto. Sono stato sempre assolto, meno che per la bancarotta. E mi hanno sempre assolto. Non sarebbe forse giusto dire perché lei è tanto massacrato? Sul blog di Storiacce tutto il resto dell'intervista con Flavio Carboni e anche la precedente sul caso Calvi. Con voi l'appuntamento è per sabato prossimo e in settimana con le inchieste di Storiacce. Vi ricordo che mi trovate anche su Facebook. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.